Accade che la legge, diciamo, dopo essere stata approvata alla Camera dei Deputati il 4 di novembre, ora deve proseguire il suo cammino al Senato, e il cammino prevede che debba prima passare dalla Commissione Giustizia e poi approdare in aula al Senato per la votazione, sperando finale, cioè insomma l'approvazione del testo uscito dalla Camera dei Deputati, in modo tale che diventi una legge della Repubblica. Ma attualmente la legge non viene discussa in Commissione Giustizia perché le forze politiche della Commissione Giustizia, e in particolar modo il Presidente della Commissione Ostellari, che è espressione della Lega Nord, continua, diciamo, a rinviare nel tempo la calendarizzazione, cioè insomma il decidere in che giorno, in che ora, in che data si possa avviare la discussione in commissione per poi arrivare in aula. Quindi al momento è tutto fermo in attesa che la commissione proceda con la discussione. La commissione vede comunque una maggioranza, almeno sulla carta, di componenti che possono dare un parere positivo sul proseguo della legge. Però questo è ovviamente sulla carta, nel senso che è cambiato il governo nel frattempo, tra l'approvazione avvenuta alla Camera il 4 novembre e oggi. Il cambiamento anche del perimetro delle forze di maggioranza nel governo rende più complicato il proseguo di questa legge, ed è evidente che i partiti, anche i partiti che sostengono questa legge fin dai tempi della Camera e dal Conte 2, sostanzialmente si trovano ad essere in difficoltà, perché chiaramente è una legge che la Lega non vuole, Forza Italia non vuole, e quindi creerebbe difficoltà e fibrillazioni all'interno del perimetro della maggioranza di governo. E questo è il motivo per cui stiamo assistendo a questo balletto dal quale non si vede ancora una fine. Balletto che, ad esempio, il senatore Pillon rivendica, cioè non è solo una questione di, come dire, tempistiche parlamentari, ma è proprio una scelta molto chiara. Eppure, appunto, nella giornata di ieri il Partito Democratico, anche il Movimento 5 Stelle, hanno provato, insomma, a dare una smossa con dichiarazioni. Però la risposta della Lega tra le righe fa capire che creerebbe problemi alla tenuta del governo stesso. Esatto, sì, no, quello che dice Pillon è effettivamente reale, cioè diciamo non è tanto merito di Pillon quanto in generale il fatto che la Lega ora è partito di governo, e anche Forza Italia, perché comunque anche Forza Italia è contraria a questa legge, salvo pochissimi senatori in dissenso da questa linea. Quindi ovviamente le forze politiche che hanno la maggioranza numerica si trovano in difficoltà nel fare una forzatura che potrebbe provocare tensioni o addirittura mettere in crisi la maggioranza di governo. Credo che in verità la cosa che tutti temono è che un eventuale proseguo della legge costerebbe un prezzo politico, magari su qualche altra legge che magari è ben voluta dalla Lega ma non dalle forze politiche come sono PD, 5 Stelle, Italia Viva o l'EU, insomma, che è appunto la vecchia maggioranza del Conte 2. E questo però fa sì che siamo in una paralisi. Ecco, se posso fare il mio commento come attivista LGBT, appunto, diciamo, rappresentante di Arcigay, che su questa legge sono, e su questa legge, che questa è l'ultima di tutta una serie di leggi che abbiamo tentato di portare a compimento, assistere sempre, costantemente, a un balletto che viene fatto sulla vita delle persone LGBT da parte della politica è sempre comunque umiliante e profondamente brutto da vedere, e ferisce sempre vedere come comunque sia ci sono delle dinamiche politiche che passano sopra la vita delle persone, perché qui parliamo di una legge che cerca semplicemente di contrastare i fenomeni discriminatori e violenti, di nient'altro, insomma, non parliamo di altro. Infatti su questo ti volevo fare una domanda: perché spaventa così tanto il centrodestra questa legge? Cioè il centrodestra vuole strizzare l'occhiolino alle parti più violente della società? Più che strizzare l'occhiolino alle parti più violente, direi che strizza l'occhio, e di brutto, anche a coloro che non sono disponibili minimamente a riconoscere il fatto che le persone LGBT, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali sono una realtà ormai visibile della nostra società, che vive, lavora, produce, paga le tasse come qualsiasi altra categoria di cittadini, che però è tuttora sottoposta a una discriminazione e a atti di violenza che a volte gli stessi discorsi, le stesse posizioni politiche di quei partiti finiscono per alimentare indirettamente, diciamo. La classica cosa a cui assistiamo è che di fronte all'aggressione violenta avvenuta a Roma, ai danni di quei due ragazzi che stavano baciando, che sono stati aggrediti da un tizio qualunque che passava di lì, la risposta è che la Meloni ti fa il post su Twitter strappalacrime, a quale però segue la dichiarazione: però non servono nuove leggi. Quindi di fronte alla violenza tout court ovviamente non possono che condannarla, perché fa brutto dire ignorare la cosa, però poi quando si tratta di mettere in campo elementi legislativi concreti che servano a prevenire contro contrastare quelle violenze, si fa orecchie da mercante, paventando un ipotetico limite della libertà di opinione. Qui non si tratta di limitare la libertà di opinione, l'opinione è garantita e anche la legge Zan la garantisce ampiamente. Qui si tratta di contrastare la violenza e l'istigazione a commettere la violenza per motivazioni legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere delle persone.